Potrei sembrare stupido e banale, sono stato in ospedale, mi hanno detto che è normale, la mia faccia un po' turbata per la storia ormai passata di quel vecchio criminale che ha rubato tutti i bimbi della scuola elementare. Un po' squallido e sociale, se ripenso a quella sera quando ti ho lasciata in giro e tu non sai il freddo che c'era. Mi ha rubato il motorino e lo so sono un cretino, ma che ci potevo fare, non potevo più arrivare. Ho uno squilibrio mentale. Lo so ti sembrerà poco normale, sto con l'acqua alla gola e non trovo i miei calzini persi nelle lenzuola. Questo non mi consola, oddio mi sento male. Ti prego credimi, amore mio. Lo sai sono sincero, a modo mio. E non ritorno indietro se dici che ti sei guardata intorno e hai visto un'altra con me. Ma cosa c'è di male? Potrei sembrare stupido e banale, sono stato al funerale di un mio caro vecchio amico che faceva il criminale. Proprio mentre lavorava è caduto sulla strada e non si è nemmeno accorto di quel tram che passava. Spero che potrai capire, ho mangiato un po' pesante, non ho ancora digerito e forse sono intollerante alla gente prepotente che non riesce ad evitare il disboscamento annuale della foresta pluviale. Lo so, è una cazzata bestiale. Ti prego credimi, amore mio. Lo sai sono sincero, a modo mio. E non mi importa niente se dici che ti sei guardata intorno e visto un'altra con me. Ma cosa c'è di male? Na na na na na na. Con l'acqua alla gola e non trovo i miei calzini persi nelle lenzuola. Questo non mi consola, ma d'altronde che mi spetta? Sono passati 2 minuti e qua nessuno mi dà ragione.